nostra hit, un pezzo che ha fatto ballare tutta l'estate. Ha fatto ballare tutti. Ha fatto ballare il popolo inesistente. Il popolo inesistente nella notte ha ballato su queste, su quest'area. Una musica inaudibile sul suo autobus psichedelico. Trasparente. Come sempre. Questo è un pezzo che è un collage di cose scritte da un autore francese, Guy Debord, che ha scritto due libri importantissimi, anzi uno è un libro e uno è un film, e sono La società dello spettacolo e In giro mimus notte et consumurini. Noi l'abbiamo miscelati e abbiamo fatto una cosa che ci piace, forse. Questo tizio diciamo che ha cercato di far capire a tutti quale follia assoluta domini l'organizzazione delle condizioni di vita nella società contemporanea, e per tutta una serie di motivi suoi è diventato un nemico dell'ordine costituito, di qualsiasi ordine costituito. Questo è, ha dei meriti, il più importante è stato quello di provocare il maggio francese nel 68, quindi tutto il 68. Forse il più importante è quello di aver vissuto una vita di rivolta coerente. E In giro memus nocter, eredità di Guy Debord. Successo a Parigi, una città che allora era così bella da indurre molti a preferire di essere poveri lì piuttosto che ricchi in qualunque altro posto. Ma ora che non ne resta più niente, chi potrebbe capirlo all'infuori di quanti ne ricordano lo splendore? Chi altri potrebbe conoscere le fatiche e i piaceri che abbiamo vissuto in quei luoghi in cui tutto è diventato così orribile? Dalla vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione. La merce abbondante sta a dire la rottura di uno sviluppo organico dei bisogni sociali. La sua accumulazione meccanica libera un artificiale illimitato di fronte al quale il desiderio vivente resta disarmato. Se delle forme diverse della stessa alienazione si combattono sotto le varie maschere della scelta totale, è perché tutte sono costruite sulle contraddizioni reali rimosse. Qui era l'antica dimora del re TV, l'erba cresce in pace sulle sue rovine. Là il profondo palazzo degli Zin, un tempo sontuoso e temuto. Tutto ciò è finito per sempre. Tutto scorre insieme, uomini ed eventi, come i flutti incessanti dello Yang Zhejiang che vanno a perdersi in mare. Parigi, allora, entro i confini dei suoi 20 arrondissements, non dormiva mai tutta e permetteva alla depravazione di cambiare quartiere 3 volte per notte. I suoi abitanti non erano ancora stati scacciati e dispersi. Al suo interno c'era ancora quel popolo che per 10 volte aveva innalzato barricate per le strade e messo in fuga dei re. Era un popolo che non si appagava di immagini. Non si sarebbe osato quando ancora viveva nella sua città fargli mangiare o bere ciò che la chimica di sostituzione non aveva ancora osato inventare. Le casse del centro non erano deserte, ne erano state rivendute a spettatori cinematografici nati altrove sotto altre travi a fiale tra individui La merce moderna non era ancora venuta a mostrarci tutto ciò che si può fare per la strada. Nessuno era stesso andare a dormire lontano a causa degli urbani d'arte. Non si era ancora visto per colpa del governo il cielo oscurarsi e per tempo sparire le false prime dell'inquinamento, coprire in permanenza la circolazione meccanica delle cose. In questa valle di isolazione gli alberi non erano morti, soffocati, e le stelle non erano spazzate, era l'ingresso della generazione. Era il labirinto ideale per trattenere i viaggiatori. Quelli che si sono attentati a un giorno, le partite le conserva il senso. Ma la maggior parte vide arrivare lì la fine. E pensi ciò che resta, in qualche modo, nessuna padella con le poche strade e quei pochi tavoli in cui si era scoperto il punto culminante. Le idee migliorano. Quando parlo di quelle persone, forse un aereo di solito, hanno bisogno di credere che sia progresso, ho bevuto il loro vino, sono rimasto fedele e non credo di essere diventato in seguito nessuna cosa migliore di quanto fosse la loro presenza, considerando le grandi forze dell'abitudine e della legge che facevano continuamente pressione su di noi per non disperderci. Nessuno era sicuro di essere ancora lì alla fine della settimana, e lì era tutto ciò che abbiamo mai amato. Il tempo diciamo che in fretta di altrove sarebbe mancato, si sentiva la terra a tremare. Il suicidio ne portava via molti, il bere e il diavolo si sono presi gli altri, come dice anche una canzone. Nel mezzo del cammino della vera vita eravamo circondati da una malinconia oscura che tante parole tristi e beffarde hanno espresso nel caffè della gioventù perduta. Per parlare chiaramente e senza allusioni, siamo pedine di un gioco giocato dal cielo, ci si trastulla con noi sulla scacchiera dell'essere e poi torniamo a uno nella scatola dell'onda. Chissà quante volte nell'epoca a venire questo dramma sublime che creiamo sarà recitato in lingue sconosciuto davanti a popoli che ancora non esistono. Con lo sviluppo del capitalismo il tempo irreversibile è unificato su scala mondiale. La storia universale diviene una realtà. Ma questa storia, che dappertutto simultaneamente è la stessa, è ancora il rifiuto intrastorico della storia. Nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso. Cos'è la scrittura? La custode della storia. Cos'è l'uomo? Lo schiavo della morte, un viaggiatore di passaggio, l'ospite di un solo luogo. Cos'è l'amicizia? L'uguaglianza degli amici. Bernardo, cosa pretendi dal mondo? Ci vedi qualcosa che ti soddisfi? Lei fugge, fugge come un fantasma che, avendoci dato una qualche forma di soddisfazione mentre stava con noi, ci abbandona, lasciandoci solo turbamento. Bernard diceva, questa verde giovinezza non durerà per sempre. Ma niente esprimeva quel presente, senza uscire, senza lei. Meglio dell'antica frase che torna integralmente su se stessa, essendo costruita lettera per lettera come un labirinto dal quale non si può uscire, sicché in esso si accordano perfettamente la forma e il contenuto della perdizione. In giro mimus nocte et consumimur igni, giriamo in tondo nella notte e siamo divorati dal fuoco. Scopre di dipendere dall'economia, l'economia di fatto dipende da essa. Là dove c'era l'es economico deve venire l'io. Il soggetto non può emergere che dalla società, cioè dalla lotta che è in essa. Il mondo possiede già il sogno di un tempo di cui non ha che da possedere la coscienza per viverlo realmente. È un momento bellissimo quello in cui si dà il via a un assalto contro l'ordine del mondo. dal suo inizio quasi impercettibile, si sa già che tra non molto, qualunque cosa accada, niente sarà più uguale a prima. È una carica che parte piano, accelera la propria corsa, supera il punto oltre il quale non potrà più tornare indietro e va irrevocabilmente a scontrarsi con ciò che sembrava inattaccabile, tanto era solido e difeso, eppure era destinato ugualmente a essere scosso e messo a repentaglio. Ecco in sostanza ciò che abbiamo fatto quando, uscendo dalla notte, abbiamo una volta di più alzato lo stendardo della buona vecchia causa. E siamo avanzati sotto il cannone del tempo. In quel tragitto molti sono morti o sono rimasti prigionieri del nemico, molti altri sono stati disarcionati e feriti e non riappariranno mai più in simili scontri. Ad alcuni è persino mancato il coraggio e si sono lasciati scivolare anche dietro, ma mai, oso dirlo, la nostra formazione ha deviato la propria linea finché non è approdata al cuore stesso della distruzione. Stacca perché altrimenti Enzo, quello dell'alimentare, qui ci ammazza, e quindi noi per rispetto di Enzo proviamo una cazzo, ma non hai un po' di rispetto di te stesso? E poi si funziona ancora, ancora già. Bene, i Tupolev Gramophone vi salutano, il pizzicone balcanico, con il pizzicone balcanico, no, pizzicone, pizzica. È sempre una fatica metterli d'accordo, sono le percussioni.